Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir. Che idea vi siete fatti dei cinesi? Domanda folle in sé, ma molto sensata se riflettete sul fatto che ormai siamo tutti circondati da cinesi. Ma io lo dico con grande allegria, anche se ciò che per molti rappresenta un motivo di preoccupazione, di ansia o di disagio sociale, per me è una grande fonte d'allegria. A me i cinesi hanno salvato il Capodanno. Voi direte come? Beh, vorrei vedere se capitasse a voi che vi si sprofonda un rubinetto sul piano di un lavello il giorno in cui stanno arrivando persone a casa vostra, verso le 6 di pomeriggio. E avete bisogno indispensabile di attrezzi, strumenti, oggetti per rimediare a questo danno. Non posso venire gli ospiti a vedere un buco sul bellissimo rivestimento con piastrelline e bisazza, però c'era un buco schifoso. Sotto casa mia si è aperto il paradiso, si è aperto un negozio cinese che vende tutto. Sono sceso, la gente già stava cominciando a provare i botti di Capodanno e ho trovato tutto: silicone sigillante, mastice pronta presa, seghetti, cazzuole, tubi, serpentine, tutto quello che serviva, un paradiso. Ho comprato anche qualche botto di Capodanno, anche le mutande rosse, anche i saponi che mancavano, anche gli ultimi accessori per mettere sotto le pentole, c'era tutto. C'erano anche i contenitori per classificare i documenti e ne ho approfittato per mettere a posto il mio archivio. Sono tornato a casa felice, ho messo tutto a posto. Il giorno dopo sono andato a rivedere il negozio dei cinesi in un quartiere come il mio, che è un quartiere umbertino, popolato di uffici il giorno, con segretarie scosciate, con signori con i pantaloni stretti in fondo e le scarpe gialle, con il colletto e la camicia altissimo, delle grosse cravatte che fanno gli agenti immobiliari. Il sabato e la domenica riemergono quelli che sono i veri abitanti del quartiere, umarels e vecchiette. Beh, il paradiso degli umarels è il negozio dei cinesi, stanno lì tutto il giorno, guardano i cacciaviti multipli, guardano i laser scarnificanti, guardano i set di tenaglie, di pinze, le mogli intanto si provano le mutande elastico morbido, le pancere, i cinti contenitivi. Insomma, i cinesi rappresentano il paradiso del mio quartiere. In tanti altri quartieri d'Italia probabilmente rappresentano dei punti di preoccupazione. I cinesi sono dappertutto. Come percepiamo oggi i cinesi? Li percepiamo perché cominciano a impossessarsi lentamente e dolcemente, con quei sorrisi, sono carini, sono gentili, sono molto accomodanti, ti fanno anche lo sconto. Ti fanno finta di non capire quello che dici, ma capiscono tutto prima ancora che tu lo dica. Beh, rappresentano una realtà palpabile nella nostra città. Noi siamo passati attraverso varie percezioni dei cinesi. I nostri genitori, i nostri zii amavano i cinesi perché avevano il libretto rosso delle guardie rosse. Noi quando eravamo più giovani amavamo i cinesi perché guardavamo i film di Bruce Lee, gli Z-movie che venivano dalla Cina con furore, e ci piacevano i cinesi. Li immaginavamo che la Cina post-maoista fosse costellata di scuole di kung fu e di cattivi cinesi con i basettini e i capelli lunghi sul collo che si affrontavano a colpi di arti marziali. La generazione ancora precedente aveva della Cina un'idea esotica, un paese lontano. I cinesi erano i venditori di cravatte, i cinesi venivano portati alle esposizioni internazionali per fare vedere questo ponte lungo fra la civilizzazione dell'Oriente, dell'Occidente, verso un Oriente lontano, selvaggio, ancora arcaico. Ancora ho un DVD a casa, anzi un CD-ROM a casa, che rappresenta un filmato rarissimo. Un osservatore europeo riuscì a filmare una rituale esecuzione capitale in Cina, erano i primi anni del Novecento, in cui il condannato in una pubblica piazza, era Pechino, piena di gente, enorme piazza, veniva per una sorta di crudelissimo ma significativo rituale depezzato di fronte alla folla, e quindi veniva legato a una tavola, veniva tagliato lentamente a pezzi, ancora vivo. Bravissimo era il boia a lasciarlo in vita mentre gli toglieva una gamba, poi un braccio, poi l'altro braccio, poi alla fine con un colpo preciso di un rasoio gli apriva la pancia e tirava fuori gli intestini. E l'osservatore occidentale filmò tutto questo e ne trasse un DVD che oggi probabilmente è uno strumento importante di reperto antropologico. Cosa sono oggi i cinesi? Come vedete oggi i cinesi? Avete paura dei cinesi? Amate i cinesi? Sapete che i cinesi un domani saranno più di noi? Sapete che in realtà il vero tramonto della nostra civilizzazione, per chi ritenga che sia importante, non sono tanto i pericoli della laicizzazione, i pericoli del terrificante deriva della visione laicista della vita, ma sono i cinesi, della vita, ma sono i cinesi arriveranno dappertutto, ci mangeranno, saranno più di noi, ma forse saremo anche contenti che questo accada. Questa settimana la polizia di Milano ha scoperto proprio qui dove sono io un albergo per disperati. Alzando questa botola, i poliziotti hanno trovato 28 cinesi di età compresa tra i 40 anni e i 3 mesi. 4 infatti erano bambini. Ma in realtà qui sotto, in 300 metri quadri, ci abitavano in 60, pagando dai 50 euro a persona ai 200 euro a famiglia per delle stanze che potevano contenere a malapena un materasso. Ma bisogna proprio andare sottoterra per scoprire qualcosa in più sui cinesi? Beh, noi 2 settimane fa una notizia interessante l'avevamo trovata alla luce del giorno. Questo è un servizio delle Iene, ma oggi, se volete, vi elenco in anticipo subito tutti i luoghi comuni, tutto l'aspetto leggendario che circola nella nostra città riguardo ai cinesi. Così evitate di dirli e i vostri interventi saranno più basati su un'esperienza personale. I cinesi non muoiono mai, perché quando muore un cinese lo fanno sparire, con i documenti fanno importare altri 9 cinesi. I cinesi si comprano tutti i locali, gli appartamenti, i negozi possibili, arrivano con degli scatoloni pieni di denaro liquido e quindi si comprano tutto. Potrebbe essere vero, potrebbe essere vero. I centri estetici oggi che pullano attorno alle stazioni di Milano, di Roma e in tanti altri posti, ci sono tante cinesine che promettono massaggi rilassanti, in realtà sono dei posti di paradisi erotici inenarrabili. I negozi cinesi sono sempre aperti. I cinesi mangeranno l'economia, perché mentre chi gestisce attività commerciali e fa parte appunto della cittadinanza italiana ha necessari tempi di recupero, di riposo, ma i cinesi non importa nulla, sono aperti tutto il giorno, tutte le notti, tutti i giorni anche festivi, come ci dice ad esempio Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti, grandissimo Nicoletti. Vabbè, adesso non esageriamo, parliamo dei cinesi. No, niente, io volevo sorvolare su tutti i temi difficili con cui spesso si tratta. Esperienze personali voglio, non ho sinologi, non ho esperti, ho semplicemente persone che devono raccontare, voglio capire la percezione del cinese. Allora, a Carpi, dove abito io, ci sono, stanno sorgendo come dei funghi, dei sushi bar che io ho sempre pensato fossero posti tradizionali dove si cucina giapponese, cucinato da giapponesi. Ah, ecco, bravissimi cinesi a far finta di essere giapponesi. Siccome nessuno va più al ristorante cinese, perché ormai gli attacchi di dissenteria sono stati trasmessi come retaggio biologico, sappiamo nei nostri genitori è meglio non andarci, quindi adesso c'è la moda del sushi bar, ma i giapponesi del sushi bar in realtà sono cinesi travestiti da giapponesi, contando sulla nostra ignoranza che non riusciamo a distinguere un cinese da un giapponese, andiamo dal giapponese, diciamo sayonara e mangiamo il sushi, ma in realtà è un cinese, vero? Sì, esattamente, noi siamo traditi dal fatto che hanno tutti gli occhi a mandorla, ma in realtà sono proprio cinesi, ma la cosa singolare è che si fanno concorrenza tra loro e quindi ogni pasto ha un prezzo diverso. Non so, tu vai lì, ordini sia take away sia seduto, il conto alla fine, non so, una volta è 45 euro, tu gli dici no, ma è un po' troppo, 39 va bene? No, 35, via, ti regalano anche la birra, con il tutto condito con una simpatia, una lega, perché non capiscono una parola di italiano. Io penso capiscano tutto, in realtà, sono convinto capiscano tutto e fingono di non capire, perché fa parte dell'essere cinesi, e qui sto affondando fino alle ginocchia, naturalmente, nel luogo comune, però mi piace fomentare quello che è appunto la percezione comune, non filtrata dal politicamente corretto, dall'analisi attenta di ogni pregiudizio. Voglio capire come gli italiani vedono i cinesi. Alberto. Solo un'altra cosa volevo solo dire, sì. Un'altra cosa che mi fa morire assolutamente, il fatto che tramutano i loro nomi cinesi in nomi italiani. Tipo? Per cui, non so, c'è uno che si chiama Liu Jin, ma si chiama, lui ti dice che si chiama Marcello, ed è il suo modo per creare con te un'intimità commerciale in un qualche modo, ma io ogni volta che torno dico ciao Marcello, d'accordo? È fantastico, secondo me. Poi ribaltano quella spocchiosità commerciale tipica dei negozi italiani, dove neanche il centesimo cade, non perché io sia interessato, ma semplicemente perché amo moltissimo la negoziazione, no? Questo è vero, però ridanno un rapporto umano nella loro cineseria, nell'acquisto. Il negoziante italiano molte volte ti guarda con l'aria di essere quello che fa a te una cortesia solo per il fatto di stare dietro un banco. Il cinese ridà un rapporto molto arcaico ma umano anche alla negoziazione. Uno compra la guarnizione per il rubinetto e è divertente giocare sul fatto che uno può tirare anche sul prezzo. Salvatore. Sì, buongiorno. Io di Capodanno ho avuto un'esperienza proprio come la sua, cioè avevo voglia di prendere un caffè. Io vivo a Como e abito in periferia della città. Per prendere un caffè sarei dovuto andare o al centro di Como, dove ci sono i locali per i turisti, altrimenti in periferia e nei paesi vicini, tutto chiuso. Ho trovato però un bellissimo bar da poco tempo comprato da cinesi e da ragazze, una madre anche carine, che era aperto tutto il giorno di Capodanno, e questo mi ha fatto veramente piacere. E un'altra esperienza che ho fatto è che per la prima volta ho comprato un qualcosa di cinese in un negozio specifico di cinesi, pagando pochissimo. Questo mi fa piacere perché fanno concorrenza con gli stessi prodotti che noi andiamo a comprare sul mercato, dove c'è scritto made in Taiwan, in Cina, in Filippine e cosa, e spendendo di meno. È come se noi prendessimo ancora stipendio in lire, quindi questo fa concorrenza ai prezzi italiani. Ecco, io non ho radici di che mi permettono, radici culturali e professionali, di fare analisi di tipo economico, ma trovo che in questo momento noi siamo tutti colti dall'euforia di due fattispecie particolari. Primo, di trovare luoghi sempre aperti. Lei ha ragione. Anch'io la mattina, quando facevo l'alba per venire a fare il programma alla radio, andavo in un bar gestito da cinesi, che era l'unico aperto, in cui si aveva tutto perfetto la mattina, in un'ora in cui gli altri ancora stavano a scaccolarsi e a mettere i piedi giù dal letto. Altra cosa è questa sorta di piacevole idea del souk, della merce più varia messa assieme. Non sono più negozi specifici, negozi specializzati, sono negozi dove c'è dal vestito al cacciavite, c'è di tutto. Voi direte è una visione arcaica, ma ridà un singolare piacere dell'acquisto. Vorrei sentire adesso Danilo Soscia. Danilo Soscia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Danilo Soscia ha da poco pubblicato per l'ETS Edizioni un volume interessante dedicato appunto in Cina, il Grand Tour degli italiani verso il centro del mondo, ETS Edizioni, che è una raccolta di saggi che vanno dai saggi della Piso, di Barzini, fino di autori più recenti, di come hanno visto alcuni viaggiatori italiani privilegiati, grandi giornalisti, grandi saggisti, grandi analisti appunto della realtà che li circonda, la Cina. Ti sei fatto un'idea generale comunque di come gli italiani hanno sempre visto i cinesi? Siamo sempre stati ammantati dai terribili pregiudizi che io sto fortificando questa mattina? Ahimè sì, poi il pregiudizio va storicizzato, in questo senso gli analisti d'epoca fascista vedevano nella Cina appena comunista il male assoluto, gli analisti invece del dopoguerra vedevano nella Cina il paradiso in terra in qualche modo. Però la dinamica di ricostruzione ideologica del diverso cinese, dell'altro cinese, però nella sua semantica non è mai mutata, purtroppo. La Cina è sempre stata così, oggetto di rifacimento, una sorta di disegno astratto che poco poi aveva a che vedere con la realtà del paese. Insomma, questo mio lavoro in fondo ha una sorta di latenza pessimista, diciamo così, la testimonianza di come buona parte dell'intelligenza italiana nel XX secolo non sia stata in grado di approcciare la Cina da un punto di vista scientifico. Ecco. Un po' le conseguenze sono il fatto che oggi ci troviamo fisicamente, concretamente, sulla via della colonizzazione da parte dei cinesi. Ancora non abbiamo capito, decifrato, immaginato, ancora ci beiamo dei negozi dove c'è dal cacciavite al vestito. Esattamente, ma guardi, la logica un po' perversa del bazar ha sempre attratto i viaggiatori italiani che sono andati in loco, per così dire. La Cina di per sé è stato uno straordinario bazar. Non dimentichiamo che il primo, diciamo così, incontro culturale, al di là di quelli remoti che solo recentemente sono stati documentati, è stato proprio quello fatto attraverso le chinoiserie, le cineserie per intenderci, di settecentesca memoria. Quella era la Cina. C'è una bellissima storia raccontata tra l'altro anche da Renato Simoni, autore della Turandot, il mio conoscitore di teatro giapponese e cinese, tra l'altro antologizzato nel mio volume, che racconta di due notabili inglesi che incontrano appunto un ospite cinese. Entrambi sono amanti di oggettistica proveniente dalla Cina e hanno sul loro camino un bellissimo vaso quando il cinese entra, entra in contatto con loro e vede questo, questo vaso sul cammino, è preso da un attacco di imbarazzo, arrossisce. Allora gli inglesi chiedono al cinese: ma come mai? Cioè, guarda, io vorrei sotterrarmi, però voi avete messo sul vostro cammino un vaso da notte. Ecco, questa è una piccola parabola che potrebbe dare così in maniera simpatica, ironica, il senso di quella che è stato il contatto, diciamo così, la decifrazione della cultura cinese da parte occidentale. Poi gli italiani in questo senso si sono sempre distinti, diciamo così, in maniera particolare, distinti negli eccessi, nel senso che durante l'epoca fascista la Cina era una sorta di entità molochista, di inferno assoluto, rappresentazione di quella massima perversione che una nazione può raggiungere, e così negli anni 60, ancora prima negli anni 60, personaggi di grandissimo spicco culturale, Merleau Ponty, come Fortini, ma come lo stesso Carlo Levi, hanno preso degli abbagli clamorosi rispetto alla realtà della Repubblica Popolare Cinese. Sì, erano gli anni in cui anche quel tipo di visione era molto filtrata dalle nostre passioni esasperate per l'ideologia, che non ne vedevano naturalmente i lati perversi, i lati crudeli, i lati di palese e reale uccisione di ogni buon senso. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Io sono volontario da circa 20 anni in un grosso carcere italiano e potrebbe essere, credo, indicativa questa mia indicazione. Nei carceri ci sono molte cooperative di lavoro gestite o dai detenuti o anche da privati che fanno lavorare i detenuti. Ebbene, tutti sperano, e sperano che, certo fra virgolette, che vengano arrestati detenuti cinesi, perché senza che nessuno gli chieda niente, lavorano il triplo di qualsiasi altro detenuto, qualsiasi cosa facciano. E questo credo che sia indicativo sulla loro natura. Cioè, mi faccia capire, dunque, i carcerati italiani sperano di avere nel loro gruppo di lavoro No, nessun carcerato spera. Chi gestisce le cooperative che svolgono attività all'interno di molti carceri italiani, che hanno comunque un loro reddito, certo, è logico, è un lavoro che devono averlo, perché producono per l'esterno e pertanto sono... Ad esempio, mi faccia un esempio di attività, così capiamo anche il genere merceologico. Guardi, in cui si può... La Telecom ha un centralino in un carcere milanese, uno dei tanti call center del 1254. Al 1254 qualche volta rispondono anche dei carcerati? Qualche volta, sì, qualche volta rispondono anche. Ma risponde il cinese, come fa a rispondere? No, il cinese in questo caso non risponde perché non è proprietà della lingua. Però lei mi ha chiesto di esempi di attività. Sì. Invece sartoria, ad esempio sartoria, della sartoria che c'è in un grosso carcere lombardo, e la prova della loro natura diversa da noi o da altri è data dal fatto che chiunque entra di cinese lavora 3 volte. Se un italiano... Mi sente? Sì, sto ricordando che in tempi non sospetti, quindi parecchi anni fa, mi feci un tour anch'io con una conoscente cinese e cominciai a vedere quelle realtà, ma lo facevo perché era un servizio che facevo allora, non ricordo se per un giornale o per una radio, via dicendo. Quelle realtà che oggi sono abbastanza palesi, mi portò in innocentissimi garage di alti quartieri romani in cui vedevo stipati 30, 40, 50 cinesi che lavoravano come matti per grossi marchi. Poi dopo è arrivato Saviano che ha scritto Gomorra, che abbiamo anche visto rappresentata nel film, in cui c'è questa storia fantastica. Ma il carcere è più indicativo, credo, perché lì sono obbligati, devono campare poveretti in carcere, tutto sommato. Potrebbero anche farne a meno. È come la placenta della mamma, sì. Ti svegli, ti dà la colazione, ti mangi la cena, guardi la televisione e poi vanno a lavorare, soprattutto per uscire dalla cella, tutti cercano di e loro lavorare. Comunque sono talmente abituati e strutturati al lavoro stacanovista che lavorano per... A Milano battevano, non so se lo fanno ancora, le ricette, la parola battevano non è forse la migliore. Sì, ma fanno anche quello, perché le ricette per la regione archiviavano. Se un italiano, ed erano pagati a cottimo, se un italiano ne faceva in un giorno 200, la cinese ne faceva 600, ma non era obbligata. Ma perché è proprio nella loro, se posso dire, io non sono un sociologo, ma nella loro natura credo che sia questo. E pertanto che sono stati abituati a bastonate a farlo da quando sono bambini, e questo è il problema, e quindi lo fanno. Ma non è detto che sia sbagliato questo o sia sbagliato atteggiamento, è un dato di fatto. Io registro soltanto, mi astengo da fare opinioni. Ci dice l'ascoltatore Alberto, che conosce la realtà carceraria, che nelle cooperative in cui lavorano carcerati sono felici quando arriva un detenuto cinese, perché lavora per tre. Paolo. Sì, ciao. Eccomi qua. La mia esperienza è un'esperienza un po' diversa, ma comunque divertente, nel senso che io avevo un problema col telefono, no? Avevo bisogno di trovare un caricatore del telefono fatto in un certo modo, cioè con un caricatore con il cavo che mi ha dato in dotazione la società che mi ha venduto il telefono, che è un cavo di quelli che si possono attaccare anche al computer, no? Quindi con la presa USB. E però io volevo poterlo attaccare anche alla accendisigari della macchina. Quindi gli serviva una riduzione che andava da USB a accendisigari. Ad accendisigari, sì, che ci sono questi cavetti che servono però soprattutto per gli iPod piuttosto che per i navigatori, no? E allora però avevo il dubbio perché la presa accendisigari esce con un voltaggio di un certo tipo, che non è il voltaggio del telefono. Chiaro, allora sì. Sono andato da Euronics, da MediaWorld, eccetera, a chiedere se potevo fare questa operazione. E nessuno è stato in grado di darmi una spiegazione. E il cinese gli ha risolto il problema. Allora, sono andato in un negozio di quelli che gestiti da cinesi, che vendono un po' di tutto, eccetera, e i quali mi hanno dato una spiegazione, e questi signori qui mi hanno dato una spiegazione tecnica, ma molto precisa. Ma a me mi hanno detto pure, adesso non so, non sono molto, che a Milano tutti sanno che se si rompe il display dell'iPhone, che mi sembra sia di difficilissima sostituzione, uno va dai cinesi, te lo cambiano identico e perfetto. Sì. Anche velocemente, sì. Ti dicono fatti una passeggiata mezz'ora e torna il telefono. Altrimenti ci vuole un tempo considerevole, sì. E costa molto di più. Sì, assolutamente. Quindi questi sono segnali che in un'area limacciosa fra illecito e l'illecito, fra il reale e l'irreale, comunque il cinese risolve. E questo, chi risolve naturalmente acquista sempre più punteggio nella società. Danilo Soscia, io so che rispetto allo spessore dei viaggiatori in Cina che hai trattato nel tuo libro, è poca cosa quello che senti, però ti dà degli elementi in più per fortificare alcune convinzioni maturate leggendo i grandi viaggiatori, o ti allarga l'orizzonte rispetto a altri punti di vista, rispetto a quelli che ti hai rifatto? Ho ascoltato, sì, delle significative conferme. Perché oggi il terreno è la tecnologia, è il consumer, che è la grande passione degli italiani. Il cinese risolve, potremmo sintetizzarlo in questa frase. Esattamente, perché appunto, cioè, noi ricollochiamo nuovamente la realtà, diciamo così, cinese, l'alterità cinese, per così dire, dentro un quadro che ci è estremamente familiare, che, trattandosi appunto dell'universo della tecnologia, ha qualcosa a che fare anche con una sorta di dimensione infantile, diciamo così, vicina al desiderio. Il cinese è colui che è aperto quando gli altri sono chiusi, il cinese è colui che riesce ad aggiustare qualsiasi cosa con un prezzo bassissimo in un tempo brevissimo. Come vede, insomma, vediamo ancora una volta confermata quella proiezione utopica che, in termini più nobili e articolazioni più complesse, i nostri cari viaggiatori hanno espresso negli anni passati. Quindi il cinese è molto bravo, comunque, in assoluto, a rappresentare un supporto concreto alle nostre utopie. Assolutamente sì, questo storicamente. Sol mi diceva, l'immaginario dell'Occidente non si è aggiornato dal milione di Marco Polo, cioè il milione di Marco Polo è ancora la cartina topografica sulla quale orientiamo i nostri sogni rispetto all'Oriente e alla Cina. E questo è ancora assolutamente valido, anche per noi. Non trovi che non sia anche una maniera molto intelligente, furba, astuta, che affonda le radici una sapienza lontana cinese, per colonizzare poi altri paesi, altri popoli? Questo dimostrarsi sempre duttili e speculari rispetto a ogni desiderio, speculare nel senso che è capace di riflettere e incarnare ogni desiderio. Certo, ma ad ogni apocalisse corrisponde un paradiso e viceversa. È chiaro che accanto alla bellissima proiezione del cinese salvifico poi c'è quel silenzioso, latente terrore che il cinese ci mangi un po' tutti e non troppo metaforicamente parlando in questo senso. Certo è che un'analisi poi concreta, diciamo così, che sia da un punto di vista quantitativo esatta, la fanno purtroppo soltanto gli esperti di borsa. Sì, infatti, ma noi questa mattina vogliamo semplicemente, e in questo ci sei di fondamentale aiuto, dare un'idea di quello che è un punto di vista, basato su pregiudizi, su impressioni superficiali, su paure ancestrali, su difetto di comunicazione e di informazione. Poi vogliamo capire come gli italiani vedono i cinesi. 800 24 00 24, tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagages. 800 24 00 24. Oh, questa mattina siamo ricoperti di telefonate. Tutti vogliono parlare dei cinesi. Evidentemente abbiamo trovato un punto piacevole di discussione con il nostro pubblico. Mi scrive la melogmane messicana Maria che a Novara, in Corso della Vittoria, c'è un'attività commerciale piena di cinesi che sono anche loro melogmani e sentono tutto il giorno Melog, e mi fa molto piacere. Piacerebbe sentirli. Se avessi indicazioni precise, chiamerei i cinesi al telefono, ma loro farebbero finta di non capirmi, sicuramente. Stiamo parlando di come gli italiani vedono i cinesi, semplicemente, banalmente, con piccolo supporto di persone che hanno un punto di vista più ampio, più circostanziato, più appoggiato su reali, concrete esperienze di viaggiatori italiani privilegiati che hanno visto la Cina con occhi magari diversi del signore che ci chiama e ci dice che è contento perché i cinesi hanno il cacciavite nel momento in cui gli serve e tutti gli altri negozi sono chiusi, o di quelli che protestano perché ci sono interi quartieri popolati soltanto da cinesi. Siamo diventati, abbiamo delle Chinatown nelle nostre città. Abbiamo al telefono Danilo Soscia, autore del volume In Cina, il Grand Tour degli italiani verso il centro del mondo, ETS Edizioni, che parla appunto un punto di vista di grandi viaggiatori, giornalisti, scrittori, saggisti, come loro hanno visto la Cina. Abbiamo l'ascoltatore Fabio. Fabio, buongiorno. Anche lei abita in una Chinatown nella sua città? Buongiorno, sì, buongiorno. Io abito, poi tra parentesi, scusate la voce, ma malanno di stagione, abito a Milano, a ridosso della Chinatown, sì, la famosissima Paolo Sarpi. I miei vicini di casa stessi sono dei cinesi. Devo dire, vabbè, al di là del fatto... Sì, è una Chinatown vera perché in effetti si vedono soltanto cinesi. È molto divertente perché ci sono le librerie con i libri di scuola scritti solo in cinese per bambini cinesi. È proprio un'altra realtà. Non solo, poi ci sono intere mercerie, ma non solo. Noi sappiamo benissimo, noi milanesi, che quando ti serviva, avevi la necessità di sbloccare un famoso telefono di una compagnia famosa telefonica, potevi andare in Paolo Sarpi, loro con 10 euro... Sì, ti traccavano il telefonino. Esatto, certo. Esatto, ti traccavano il telefonino o ti sostituivano con dei pezzi che non potevi trovare da nessun'altra parte, li trovavi solo in Cina. Ovviamente non erano originali, non erano pezzi originali. Però funzionava. La mia esperienza personale è di avere dei vicini, proprio vicini, io abito in una casa della vecchia Milano, quindi le cosiddette case di ringhiera, i miei vicini sono dei cinesi. Ci sono stati dei problemi, perché ovviamente non nascondo che ci sono stati dei problemi, però comunque li vedo come dei grandissimi lavoratori che cercano di risolvere i loro problemi al loro interno, non vogliono, diciamo così, persone esterne. È successo che ci sono stati dei litigi, sono stati chiamati la polizia e loro si sono arrabbiati perché... Beh, da quelle parti sono volate anche le coltellate un paio d'anni fa e anche di brutto. Esatto, però loro tendono sempre a risolvere tutto all'interno, cioè loro è come se fosse una sorta di città a parte, è la città nella città. Quindi lei magari vede uno uscire con le budella che se le tiene in mano, hanno risolto il problema all'interno della loro famiglia. No, io ovviamente una volta... No, non è faccio lo scandalizzato, accade molto più spesso nelle nostre famiglie questo, poi diventano episodi, esatto, di cronaca e talk show, però diciamo i cinesi hanno la loro giustizia, la loro sanità, le loro amministrazioni all'interno della loro società, hanno i loro ospedali, le loro cliniche, esatto, dove nascono, partoriscono, fanno tutte le loro cose separati. Però volevo dire una cosa su un luogo comune precedentemente detto. Io gestisco un ristorante a Milano, noi l'uno siamo stati aperti e siamo stati premiati di questa scelta, perché comunque abbiamo avuto veramente un sacco di gente, tanto da finire la roba in cucina, mentre altri nostri, tra virgolette, competitor, come si usa adesso il termine, non erano aperti. Io ho avuto l'esperienza reale che vengono con tanti soldi in contanti per dirti ti compro il locale. E recentemente ho... Cioè lo scatolone dei soldi è vera la è voce? È una valigia, non è uno scatolone, è una valigia. È una valigia di soldi e loro veramente recentemente poi ho... Ma oggi scusi, con le leggi fiscali che ci sono, anche quelle inaugurate proprio quest'anno qui, uno non è che può avere tutto questo contante senza giustificarlo. Lo so, però se voi... Però sono soldi, non puzzano, è chiaro. No, esatto. Poi vi invito a leggere anche il libro Metastasi, dove Di Bella parla di un accordo tra l'andrangheta e la mafia cinese proprio per pulire il denaro in questo modo, cioè comprando dei locali che poi di fatto... Io sono pieno di locali sotto casa, bar di cinesi, che sono sempre vuoti. E io mi chiedo, avendo un locale, come fanno a vivere? Sì, le guardi, qui accanto alla nostra radio, a nemmeno 500 metri, c'è Piazza Vittorio Annessi, dietro la stazione Termini. Lei trova lungo una via magari 7 esercizi commerciali identici, con lo stesso bancone, lo stesso rivestimento alle pareti, lo stesso pavimento, che hanno dentro 3 manichini con una maglietta, con la stessa ragazza vestita uguale, vuoti, sempre vuoti. Uno dice, come mai? Probabilmente l'importante è che la sera loro fatturino comunque del denaro, anche se non hanno venduto niente, questo è utile. Però fa parte comunque di quelle realtà che sono sotto gli occhi di tutti, che sembra così palese vedere intervenire, però vivono in maniera parassitaria comunque in zone morte indecifrabili della nostra civilizzazione, come appunto indecifrabili molte volte sono i cinesi. Massimiliano? Massimiliano è caduto. Bene, Massimiliano è caduto e sono quasi contento in questo momento che mi permette di collegarmi con la Cina, dove è Angela Michelini. Angela, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, Angela Michelini, devo dirlo, è una mia antica amica che io conobbi ai tempi in cui ero intrippato di Second Life, ci tartassai i timpani anche agli ascoltatori di questa radio, ci scrissi un libro, conobbi tante persone interessanti che sperimentavano la possibilità di una vita parallela. Una di queste era Angela Michelini, che aveva un altro pseudonimo, un altro nome, che era una ragazza esperta in lingua cinese, e infatti tanto esperta che partì e da 3 anni se ne sta in Cina, fa il controller per importanti aziende cinesi. E quindi tu, Angela, questa realtà che noi stiamo vedendo con gli occhi degli italiani, sempre privi di strumenti concreti per fare delle analisi, dare dei giudizi, quindi si basano sulla loro esperienza epidermica, la stai facendo personalmente sulla tua pelle. Come sono i cinesi visti da vicino? Ma, innanzitutto dove stai cinesi... dove stai esattamente te? Io in questo momento sono nella provincia del Guangdong, nel profondo sud, in una cittadina di solamente 1,5 milioni di abitanti, perché qui 1,5 milioni non è niente, e proprio ai confini con Hong Kong. E sono qui ormai da qualche mese, perché prima invece abitavo nel profondo nord, vicino a Pechino. Sei l'unica non cinese, diciamo, nel tuo entourage? No, sono con un altro paio di italiani, perché questa in realtà è una ditta italiana, però praticamente è gestita dai cinesi e noi italiani siamo ovviamente la minoranza. E quindi io ho avuto la fortuna anche di viaggiare la Cina un po' su vari punti cardinali. I cinesi è difficile veramente inquadrarli. Io credo che i cinesi che vedo io tutti i giorni non siano poi quelli che vedono i miei così fratelli italiani in Italia. Ecco, riesce a darmi un'idea di quale sia la differenza fondamentale? Tu dovessi riassumerla in una battuta, in una frase, rispetto ai cinesi che vediamo nelle Chinatown italiane, che vediamo venderci cacciaviti e mutande e via dicendo, come sono poi visti da vicino nel loro habitat naturale? La prima cosa che ho notato è che sono estremamente curiosi e anche invadenti della tua privacy. Tu comunque ce l'hai scritto in faccia che sei l'altro, non è come fare lo straniero, non so, in Francia piuttosto che in Inghilterra, dove puoi camuffarti. Qui ce l'hai scritto chiaramente che non sei uno di loro, e loro hanno una curiosità molto spiccata, forte, di capire, di conoscere quello che sei, quello che rappresenti. E credo che la comunità invece cinese in Italia molto spesso, io ho sentito anche prima gli interventi, questa parola chiusura che ricorre molto spesso, che effettivamente contraddistingue sì, il loro tipo di immigrazione in Italia. Qui invece sono aperti, invasivi, cioè io non so, compro una lavatrice, me la faccio portare a casa, i vicini aprono la porta, vogliono vedere cosa sta succedendo, che tipo di lavatrice è, entrano in casa, magari me la installano. Quindi è questa cosa qui è a pelle una dei segni che contraddistinguono il cinese che vedo tutti i giorni rispetto a quello che vedo a Milano quando torno in Italia. Ecco, nei rapporti personali invece come sono? Tu avrai amici cinesi, uscirai con i cinesi, com'è la tua vita personale e relazionale assieme ai cinesi? Perché qua sembra impossibile, vista le nostre parti, i cinesi e la comunità cinese. Il massimo di rapporto che puoi averci è andare appunto in una loro attività e comprare qualcosa da loro, o nei casi più estremi, di cui non ho testimonianza diretta, andare nei centri massaggio o nei centri estetici, o usufruire di quelle che sembra che siano le delizie massime propinate da cinesi che sono particolarmente attivi nel campo del relax degli italiani. I cinesi sono, ma hanno un modo di divertirsi che non confà molto col mio, a dire la verità. Però diciamo che quando si esce con i cinesi bisogna prepararsi a una serata dura dal punto di vista alcolico. Io avevo un'idea che i cinesi non bevessero tanto, invece mi sono dovuta ricredere fortemente. E proprio si distruggono fisicamente per una serata, diventano tutti amici. Anche acerrimi nemici sul lavoro diventano fratelli in quel paio d'ore, facendo gambei, che sarebbe diciamo il nostro al fondo. E poi, vabbè, io diciamo che è difficile diventare veramente amici con un cinese che non abbia avuto diciamo contatti con l'Occidente, perché abbiamo maniere e vedute molto diverse su come andare fuori alla sera, divertirsi. Diciamo che i miei contatti sono prevalentemente con i miei colleghi di lavoro. Però sono molto goliardici qua i cinesi, rispetto anche penso ai cinesi che sono in Italia, amano molto divertirsi, molto andare nei karaoke, che proprio karaoke non sono, bere come dicevo prima, quindi sono, non lo so, forse sarà che ormai sono 3 anni e comincio anche a non notare più tutte queste differenze, forse mi sto cinesizzando io, non lo so. No, però è interessante Angela, perché tu ci hai dato un quadro totalmente antitetico rispetto ad ogni luogo comune, ad ogni immagine prefigurata che noi avevamo dei cinesi, vedendoli nel loro ruolo di immigrati. Grazie Angela Michelini dalla Cina, un abbraccio, un saluto, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Nome? Iminciamo. Età? 17. La tua scuola è più impegnativa rispetto alla scuola che frequenti in Italia? Sì, i cinesi studiano di più. Sì, studiano molto di più. Cibo preferito italiano? Mi piace la pasta, l'insalata, la pizza. Formaggio. In Italia, qual è il pregiudizio più comune verso i cinesi? Dicono che i cinesi mangiano i cani. Secondo me tipo pensano che mangiamo tanti cani o gli animali. È quello più comune nel tuo paese nei confronti degli italiani? Gli italiani sono molto aperti, sono molto simpatici. Pensano un po' male di Sicilia, pensano ci sono tanti mafi. 800240024, stamattina stiamo inanellando tutti i luoghi comuni che gli italiani hanno rispetto ai cinesi, ma che anche i cinesi hanno rispetto al nostro paese. Abbiamo sentito Angela Michelini da Pechino, una amica e collega che vive da anni in Cina, dice che i cinesi a viverci accanto, a starci vicino tutto il giorno, sono esattamente l'opposto rispetto a quello che noi ci siamo prefigurati, persone riservate, persone che stanno chiuse nella loro realtà, sono molto sociali, molto molto goliardici, anche molto impiccioni, hanno una socialità molto promiscua, e questo è una novità probabilmente per chi li vede come fantasmi sgusciare nei loro quartieri, nelle loro aree riservate. Abbiamo ancora al telefono Danilo Soscia, che è autore del volume In Cina, il Grand Tour degli Italiani verso il centro del mondo, che parla di alcuni italiani come appunto Franco Fortini, Carlo Cassola, Curzio Malaparte, Luigi Barzini, che hanno fatto in varie parti della loro esistenza e della loro vita professionale dei viaggi in Cina. Velocemente, Danilo Soscia, rispetto anche a quello che ha detto la collega che stava in Cina e quello che continua a sentire da parte dei nostri ascoltatori, trovi dei punti in comune rispetto, che ne so, ai viaggi di Barzini 70 anni fa, che andava in Cina e vedeva i cinesi con i suoi occhi signore attento, curioso, ma molto legato comunque alla propria realtà? Certo, i luoghi comuni poi vanno in qualche modo storicizzati, aggiornati, diciamo così. Quelli ai quali guardava Barzini ovviamente erano quelli della sua epoca. Però Barzini in particolare, è stato uno di quelli che si è distinto per lucidità, per attenzione. È uno di quelli che disse: ritroveremo il Made in China fin dentro le nostre mutande. E dire questo in che anno lo diceva? Nel 1900, proprio agli albori del XX secolo, una straordinaria prefigurazione che oggi ha il sapore della profezia in qualche modo. Devo dire questo, fa sorridere, ma un sorriso buono, un sorriso positivo, questo rincorrersi di luoghi comuni tra una parte e l'altra del mondo. Io spesso mi interrogo, studiando questi fenomeni quotidianamente, ma è qualcosa che ha a che fare con la cinesità, o ha qualcosa che ha a che fare poi con la straordinaria facilità, l'approdo sicuro che certi luoghi comuni rappresentano per noi? Diciamo che esiste un'area intermedia, che è lo zoccolo duro da cui partono le radici di tutti i luoghi comuni, e quella probabilmente è la realtà oggettiva sulla Cina, che però permette, è necessario per conoscerla nella sua concretezza, avere il duplice sguardo, quello della persona che ha vissuto e vive in mezzo ai cinesi la realtà cinese, e quello che vede con occhi non troppo foderati di pregiudizio la realtà cinese e degli immigrati cinesi in Italia. Certo, ma guardi, io ho sempre davanti agli occhi una straordinaria pagina di Renata Pisu, che le cito velocissimamente. Renata Pisu andò in Cina nel 1956 da studentessa, la prima studentessa italiana in Cina. Il 1956 è l'anno del grande balzo in avanti, l'anno della prima grande repressione della sinistra extra maoista in qualche modo. Cosa succede? Mao avvia questa campagna contro i passeri, perché i passeri mangiavano le semenze nei campi. Allora, per far cessare la carestia che affliggeva la Cina, bisognava sterminare i passeri. Come sterminarli? I cinesi sterminarono i passeri senza sparare nemmeno un colpo, ma suonando tamburi di latta, facendo sì che gli uccelli non potessero mai poggiarsi sui rami e cadendo in questo modo in preda al crepacuore. Allora la Pisu narra di lei a Beida, all'Università di Pechino, dove tutti i docenti, bidelli, studenti, nel cortile dell'università a suonare tamburi, vedendo questa pioggia di passi. Ecco, i cinesi per me sono questi. Queste erano anche le immagini che mandavano in estasi gli aficionados del sogno comunista della Cina. Sembra che i cinesi avessero questa sorta di gesto poetico anche nella capacità di risolvere i conflitti sociali. Poi sappiamo che la realtà, sì, suonavano i tamburi di latta per far cadere i passeri, ma suonavano anche strumenti lievemente più cruenti per riuscire a omologare il pensiero, e su questo probabilmente meriterebbe un'analisi un pochino più attenta. Grazie comunque, Danilo Soscia. Vogliamo passare adesso a una realtà assai più concreta, che dovrebbe andare oltre tutti i luoghi comuni che abbiamo semplicemente citato, di persone che vedono i cinesi, non li capiscono, non li comprendono, o stanno simpatici o temono, o comunque è tutto basato su una conoscenza non oggettiva della realtà cinese. In Italia da qualche tempo c'è una scuola in cui si insegna il cinese al liceo come lingua, appunto, che fa parte del programma scolastico. Questo è il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II a Roma, che ha istituito un liceo liceo scientifico internazionale con opzione in lingua cinese. Abbiamo al telefono il rettore e dirigente scolastico Emilio Fatovic. Professor Fatovic, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, come le è venuto in mente di mettere il cinese come lingua di insegnamento scolastico a un liceo? Ma nasce l'ispiratore, mio figlio, che è general manager in Cina, dal 2004 che lavora in Cina, ed è uno dei 14 ragazzi che la Weber aveva preparato alla Bocconi per mandare in Cina a gestire le società. Quindi lei ha visto oltre, perché aveva una realtà familiare che le permetteva di avere questo sguardo avanzato sulla realtà cinese. Sentendo prima il professore Danilo, io ricordo ai miei tempi dell'università volevo fare la tesi sulla Cina, poi il mio professore mi persuase di cambiare diritto costituzionale. Diciamo che avendo mio figlio in Cina avevo colloqui con lui e lui fu l'ispiratore nel momento in cui mi disse: guarda, è necessario che i nostri studenti non studino la lingua cinese come una lingua straniera, ma studino la lingua cinese come un percorso culturale al livello dei cinesi per poter poi veramente dialogare con loro, perché sono una realtà forte. E quindi è quello che disse Luigi Barzini nel 1904, esatto, come ricordava prima, esatto, tanto ci entreranno, esatto, anche nelle mutande, tanto vale cominciare, esatto, a conoscere. Esatto, e quindi avevo già realizzato 20 anni fa, ero presente nel gruppo di lavoro che aveva realizzato il liceo scientifico internazionale, il liceo classico europeo, e con quel gruppo che ho ritrovato al convito nazionale, con i docenti, con tutti, abbiamo realizzato col Ministero, devo dire la verità, grandi artefici sono stati il consigliere del ministro Frattini, dottor Accolla, e il direttore generale Giunta La Spada, che è andato in pensione, persone con le quali abbiamo elaborato questo progetto, che è l'unico in Italia ancora oggi e il secondo in Europa, cioè a Parigi. Guarda che sembra veramente un paradosso, noi siamo abituati a visioni non certo edificanti, i ragazzi vanno a spaccare vetrine dicendo vogliamo più cultura, c'è un liceo italiano dove comunque studiano il cinese. Quante ore lo studiano? Quante ore lo studiano? 9 ore a settimana in prima, 7 più 2, l'italiano 5. Studiano lingua e cultura cinese con i docenti. Ma le faccio un esempio, la particolarità è che il professor Masini, che ha anche lui artefice di questo progetto, accompagna con l'Università della Sapienza, con l'Istituto Confucio, dietro c'è nel Comitato Tecnoscientifico Italia-Cina a Rumiti. Diciamo che è un progetto fortemente voluto, un'azione di sistema, per il quale stiamo preparando 28 alunni ogni anno, poi abbiamo fatto due classi, 56 alunni, che ogni anno fanno 3 settimane a Cina, si sottopongono a Pechino all'esame di competenza, cioè speriamo che in quinta possano avere la doppia maturità, frequentare le università cinesi, è l'unico modo per essere poi pronti ad affrontare quello che nel 2000 e nel 2100 sarà il dominio della Cina. Quindi sarà, lei sta preparando, sta preparando gli avamposti italiani per trattare con i cinesi. Guardi, è l'unico modo, sono avanti su tutto. Io, mio figlio è manager a Shanghai, è anche componente a Camera di Commercio, quindi con lui ha la ragazza cinese, probabilmente si sposerà con quella ragazza cinese, quindi io la realtà cinese la vivo di persona. Quindi vive l'integrazione con i cinesi già sulla sua pelle, sulla sua famiglia. Esatto, dico, guardi, lei pensi solo una cosa, da 2000 anni due popoli si parlano, i romani e i cinesi, al tempo di Qing si parlava del grande Cesare, dell'impero romano, e sono 2000 anni che si collocano, certamente con differenze enormi, perché quel paese oggi è avanti su tutto, e specialmente nel campo scolastico. Quindi lei che ha questa visione, professor Fatovic, in realtà è fatale, è immancabile che i cinesi prima o poi comunque saranno i nostri padroni, quindi tanto vale comunque cominciare a conoscerli e per avere con loro un rapporto il più possibile paritario, o sono troppo apocalittico? No, guardi, se lei si richiama Matteo Ricci, attraverso i suoi concorsi e tutto, adesso è stato il più grande consigliere dell'imperatore. Noi italiani abbiamo i nostri studenti, quando si applicano e percorrono, possono affrontare tutto il mondo. D'altronde abbiamo avuto geni, abbiamo avuto tutto. Si tratta di riprendere a fianco a loro, certamente, gli elementi peculiari nostri. Io penso che i nostri giovani, se riescono ad effettuare una preparazione condivisa, consapevole, poi possono. E i cinesi sono molto attenti sulla qualità. Io devo dire che i cinesi sono, Confucio, anche l'ambasciatore ci ha onorato la presenza. Quando trovano un istituto serio dove si lavora seriamente, dove condividono i processi, i percorsi, sono molto attenti. Guardi, le dico solo che la scuola superiore di Tianjin è venuta a visitare il nostro liceo classico europeo ed è rimasta meravigliata. Ma loro come ci vedono? Ci vedono come una terra ricca per essere colonizzata o come un luogo da cui possono trarre ispirazione? Perché non ci illudiamo che si lasciano impensierire comunque dal fatto che abbiamo tradizione millenaria, la cultura, lo spessore. Ma guardi, i cinesi amano l'Italia. Lei pensi, se lei parla con i cinesi, mediamente le parlo di Firenze, di Venezia. I cinesi per certi aspetti nell'affabilità sono vicini a noi, hanno un altro, come diceva prima il collega, hanno un altro modo di socializzare, hanno un altro modo di vedere le cose, hanno una cultura diversa dalla nostra. Io non penso che i cinesi vedano o non vedano gli altri. I cinesi ciclicamente hanno inventato tutto, se guardiamo indietro, e ciclicamente diventano il dragone che poi conquista il mondo e in quella posizione si mette. Con gli italiani, guardi, nel millennium di Pechino, nella storia di 2000 anni della città, sì, ci sono due soli occidentali disegnati come immagine, Marco Polo e Matteo Ricci. Non è poco, sa. Questo quindi forse probabilmente potrà salvarci la nostra identità. Quando arriveranno i cinesi saranno ovunque. Grazie professore Emilio Fatovic, rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, che per primo ha istituito un liceo scientifico dove insegnano anche il cinese. Ci sentiamo domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.